Il giorno seguente l'alba spuntò grigia e gelida, con un cielo minaccioso e un vento polare come sfondo. Enrico IV si avvicinò agli imponenti cancelli di Canossa insieme al suo stuolo di penitenti. Erano guidati dall'abate Ugo di Cluny, che li condusse fino ai cancelli e si inginocchiò per richiedere la missione del re e del suo seguito. Impugnando un pastorale e intonando preghiere di penitenza, Ugo aveva guidato la processione per il lungo e tortuoso sentiero di montagna che conduceva alla roccaforte di Matilde. Subito dietro di lui c'era il sovrano umiliato con indosso il cilicium, l'indumento fatto di fibra ruvida e pelo di capra che serviva per fare penitenza. Era studiato per irritare la pelle, per lacerarla e provocare un terribile prurito come mortificazione della carne. Per dimostrare fino a che punto arrivava il suo pentimento, Enrico aveva camminato per il sentiero roccioso e gelato a piedi nudi. Un gruppo di vescovi e nobili, un tempo superbi, che avevano attaccato Gregorio durante il sinodo di Worms, pretendendo che venisse deposto, seguiva il re in un simile atteggiamento di penitenza. Gli abitanti di Canossa e delle zone circostanti erano usciti per assistere a quello spettacolo e fiancheggiavano la strada che portava alla fortezza. Alcuni lo schernivano, lanciando ortaggi marci al tiranno che si definiva loro sovrano. Altri osservavano in silenzio, forse consapevoli del fatto che si stava verificando un evento storico, o forse sgomenti per quella pantomima messa in scena da un papa e un re. Giunto ai cancelli, il re avanzò per bussare e chiedere formalmente il permesso di entrare. Il discorso che aveva preparato risuonò nell'aria gelida. Chiedo udienza al Santo Padre. Vengo come penitente e dichiaro di essere pentito dei peccati che ho commesso contro di lui e contro la Chiesa che rappresenta. Vengo con umiltà, vengo come uomo e come re a invocare la sua benedizione e il suo perdono. Un legato papale comunicò la risposta annunciandola dalla torre che guarniva la facciata della fortezza. Il Santo Padre ha respinto la vostra richiesta. Crede che non abbiate ancora dimostrato che il vostro pentimento è sincero. Un silenzio stupito fu la reazione che seguì. Com'era possibile che dopo una simile umiliazione il Papa si rifiutasse ancora di ricevere un re? Enrico si rivolse all'abate in cerca di appoggio. Il vescovo di Cluny rispose: Il re si è umiliato davanti a Dio e al suo rappresentante sulla terra. Non vedete come sanguina per dimostrare il suo pentimento? Il Santo Padre non può avere la clemenza di ascoltare un'ulteriore richiesta di perdono e un altro voto di obbedienza. Enrico aveva i piedi tagliati per essersi arrampicato sul sentiero roccioso della montagna e rivoli di sangue scorrevano sull'irritazione che gli copriva le braccia a causa del terribile cilicio. Il suo aspetto era assolutamente pietoso ed era evidente che avesse sofferto durante il viaggio. Tuttavia, il legato si limitò a ripetere l'annuncio così come gli era stato affidato dal Papa e sparì all'interno della torre, lasciando il re e l'abate più potente d'Europa davanti ai cancelli chiusi con la neve che ricominciava a cadere. Matilde era fuori di sé per la frustrazione. Non riusciva a credere che Gregorio fosse così ostile. Enrico, nonostante il suo odioso comportamento, aveva dimostrato in modo assai plateale di essere pentito. Si era mortificato e umiliato come nessun altro re della storia aveva mai fatto, eppure Gregorio si rifiutava ancora di ammetterlo alla sua presenza. Il Papa non voleva ascoltare nessuno, nemmeno la sua amata, e lei aveva smesso di parlargli perché altrimenti avrebbero litigato. Anche se Matilde aveva già chiesto consiglio a Isabella riguardo a quella faccenda, decise che le occorreva conoscere il punto di vista di un uomo e andò a cercare Con. Lo trovò nelle stalle, dove lui non fu felice di vederla. Che ci fai qui? Si gela. Ho bisogno di te. Andiamo dentro allora, mia piccola Mazzone. So di che cosa si tratta e ti racconterò una storia che secondo me dovresti ascoltare. La fece rientrare subito nel tepore del castello, nell'anticamera vicino alle cucine. Quella stanza aveva il vantaggio di essere vicina ai fornelli e di possedere inoltre un proprio focolare. Il nonno di Matilde l'aveva costruita appositamente per tenervi riunioni nel periodo invernale per contrastare il freddo pungente di quelle montagne. Matilde si scaldò le mani vicino al fuoco e si sedette sulla panca imbottita con la schiena contro il muro. Tirò un profondo respiro mentre si appoggiava alla pietra dura. Oh, Con! Che cosa posso fare con lui? Si sta comportando da tiranno. Con scrollò le spalle. Tu credi? Matilde fu colta alla sprovvista. Si aspettava che lui fosse del tutto d'accordo con lei. Certo, dopo la dimostrazione di pentimento di Enrico, si rifiuta ancora di riceverlo. È un oltraggio. No, è forza. Rispettala e lascialo in pace. Oh, non dici sul serio. Sono serio. Ma non ci sono ma. Gregorio sa benissimo com'è Enrico e come sarà sempre. Matilde, quell'uomo è un mostro con una corona. Non sottovalutare mai ciò di cui è capace. Ora sono io che imploro te. Qualunque cosa abbia ammorbidito il tuo cuore nei confronti del tuo perfido cugino, non dimenticare quello che sai sul suo passato e sulle sue azioni. È un uomo molto pericoloso, è un re ancora più dannoso e per te è più nocivo che per chiunque altro. Come fai a non rendertene conto? E credimi, per quanto tu possa essere arrabbiata con Gregorio, lui sta davvero cercando di proteggere te più che se stesso. Matilde ci riflette per un istante. Malgrado se ne rendesse conto, voleva anche credere che ci fosse la possibilità che il pentimento del cugino fosse sincero, data la forza della dimostrazione che Enrico aveva dato quel giorno. Dunque, non credi che un uomo malvagio possa cambiare le sue abitudini? Non credo che questo uomo malvagio, in particolare, possa cambiare le sue abitudini. E questo mi porta alla storia che volevo raccontarti. Matilde annuì e si preparò ad ascoltare il grande guerriero celtico che intrecciava con la sua innata magia la trama di un racconto. Quando ero un allievo della scuola di Chartres. Chartres? Matilde sobbalzò nel sentir nominare la città sacra di cui Conn si rifiutava sempre di parlare. Lui la guardò incagnesco. Dopo, non interrompermi. La scuola di Chartres ospitava eruditi di ogni parte d'Europa e io sono stato tanto fortunato da passare un po' di tempo insieme a un uomo che veniva dall'Oriente, un maestro del sufismo. Mi raccontò ciò che sto per narrarti. È la storia dello scorpione e del rospo. Il rospo era una creatura buona e gentile, che nuotava felice nel suo stagno e aveva molti amici perché era ben voluto da tutti. Un giorno, mentre sguazzava, sentì una voce che lo chiamava dalla riva dello stagno. «Ehi, rospetto!» disse la voce. «Vieni qui!» E così il rospo nuotò fino alla riva e lì vide che era stato lo scorpione a chiamarlo. Ora ricordati che il rospo era per sua natura una creatura fiduciosa e buona, ma non era uno stupido. Sapeva che lo scorpione era pericoloso ed era noto per il suo pungiglione velenoso che poteva colpire in qualsiasi momento e spesso senza nessun motivo. Così il rospo mantenne le distanze, ma replicò in modo educato: «Che cosa posso fare per te, fratello scorpione?» «Devo andare sull'altra riva dello stagno», gli disse lo scorpione. «Tuttavia mi servirebbero parecchi giorni per farlo camminando. Se mi portassi sulla schiena e lo attraversassi a nuoto, arriverei in un baleno. Mi hanno detto che sei buono e generoso e spero che vorrai farmi questo enorme favore, che mi aiuterebbe tantissimo e sarebbe molto apprezzato». Ora il rospetto aveva un rompicapo da risolvere. La sua natura lo spingeva ad aiutare, ma aveva paura della cattiva reputazione dello scorpione. Decise di essere sincero. «Fratello scorpione, io vorrei aiutarti, ma tu sei noto per la tua volubilità e per il tuo pungiglione micidiale. Se ti prendo sulla schiena e nuoto, che mi succederà se deciderai di pungermi? Morirò e io non voglio morire». Lo scorpione si mise a ridere. «Ridicolo, fratello rospo, pensa ciò che hai appena detto. Se ti pungessi mentre nuoti andresti a fondo e annegheremo entrambi. Non ho alcun desiderio di uccidere te e di sicuro neanche me stesso, perciò perché mai dovrei pungerti? Devo solo attraversare lo stagno e mi serve il tuo aiuto per farlo. Per favore, fratello». E così il rospo fiducioso permise allo scorpione di salirgli sulla schiena e cominciò a nuotare. Quando giunsero a metà strada il rospo sentì un dolore terribilmente acuto. «Ai! Cos'è stato?» gridò. Al che lo scorpione replicò: «Oh, ti ho punto, scusa!» Il rospo era incredulo e mentre il veleno gli si diffondeva nel corpo e gli cominciava ad affondare, chiese allo scorpione: «Ma perché, fratello, perché mi hai punto? Se ora moriremo di sicuro entrambi!» Lo scorpione sospirò e spiegò in modo molto semplice, mentre entrambi si preparavano a morire: «Non ho saputo resistere, è la mia natura!» Conn lasciò che la morale aleggiasse nell'aria per un po' prima di continuare. «Vedi, Matilde, c'è un altro fatto altrettanto importante nella conclusione di questa fiaba. Quando lo scorpione dice al rospo che non vuole ferirlo, sembra sincero perché è sincero in quel momento. In quel momento davvero non voleva pungerlo e non voleva fare niente di così palesemente autodistruttivo, ma la sua natura lo ha sopraffatto, come sempre, e lui non è proprio riuscito a trattenersi». Matilde sospirò perché era vero. Enrico è uno scorpione. Esatto. Perciò, anche se forse persino lui crede di essere pentito, non pensare neanche per un istante che abbia dominato la sua natura e... Matilde... Sì? La lezione finale è che il rospo è da biasimare tanto quanto lo scorpione per la propria morte. Conosceva la natura dello scorpione e il suo istinto gli diceva di non fidarsi, ma ha ignorato la sua somma saggezza. Cosa vuoi dirmi con esattezza, dunque? Non essere un rospo, mia piccola Mazzone, non essere un rospo. Il contingente tedesco si accampò ai piedi della collina, fuori dalla fortezza. Lo spettacolo della penitenza di Enrico e dei nobili al suo seguito si ripeté per 3 giorni. All'alba del quarto giorno il legato papale annunciò che la penitenza di Enrico era stata accettata e che il re sarebbe stato ammesso al cospetto del Santo Padre. Quello che Enrico e la storia non avrebbero mai saputo era quanto fosse stato importante il ruolo di Matilde nell'accettazione della penitenza del re da parte del Papa Gregorio VII. La contessa di Canossa, sebbene non desiderasse commettere gli stessi tragici errori del rospo della fiaba di Conn, era terrorizzata dall'eventualità che suo cugino morisse congelato alle porte della sua fortezza. Non poteva proprio permettere che accadesse una cosa del genere. Era disumano e violava tutto ciò che lei rappresentava, tanto sul piano spirituale quanto su quello personale. Inoltre non sarebbe servito al piano di Gregorio per rafforzare la Chiesa, di certo non una Chiesa dedita all'amore e alla compassione. Temeva che le azioni di Gregorio alla fine venissero considerate tiranniche, severe e spietate. Persino gli abitanti di Canossa, per quanto le fossero fedeli, cominciavano a manifestare un certo disagio. Osservavano lo spettacolo quotidiano di un re che deperiva per il digiuno e per il freddo. Il sovrano disonorato implorava solo di essere ammesso al cospetto del pontefice per poter continuare la sua supplica e protrarre la sua umiliazione. La fermezza di Gregorio rasentava la crudeltà, doveva essere fermata. Prima di coricarsi, la terza sera, Matilde si era presentata da Gregorio con un ultimatum che aveva costituito la scelta più difficile della sua vita. Anche se lo amava alla follia, il suo obbligo supremo andava alla sua missione e alla promessa che aveva fatto come servitrice dell'amore sulla terra. E la promessa di vivere secondo gli insegnamenti di un uomo chiamato Gesù, alla luce di ciò, Matilde non poteva più starsene in disparte e lasciare che quello spettacolo umiliante continuasse. O Gregorio accettava di ricevere Enrico, o lei avrebbe lasciato Canossa, ma non avrebbe più partecipato ad azioni che riteneva contrarie alla volontà divina e agli insegnamenti di Gesù. Il Papa era rimasto sbalordito dalla presa di posizione di Matilde. All'inizio aveva rifiutato di farsi influenzare dal suo ultimatum. Solo quando l'aveva sentita dare ordini di preparare le sue cose per la partenza, aveva capito quanto fosse seria. Alla fine Gregorio aveva concluso che doveva cedere se voleva salvare quanto aveva di più caro. La stessa passione e la stessa energia che avevano fatto unire Gregorio e Matilde sarebbero servite anche a metterli alla prova in quel momento critico della loro relazione. Due menti e due spiriti così forti non potevano aspettarsi di vivere sempre in totale accordo e armonia. Era una lezione che dovevano imparare entrambi. Fu una delle tante che vennero alla luce a Canossa durante l'inverno del 1077. Re Enrico IV fu ammesso alla presenza del Papa Gregorio VII con Matilde al fianco di quest'ultimo nel tardo pomeriggio del 28 gennaio. Era una penosa visione di carne screpolata e lacera. Guardarlo mentre si prostrava quasi in lacrime davanti al Papa fu come vedere un uomo distrutto che si arrendeva completamente. Matilde provò pietà mentre lo osservava. Enrico era senza dubbio vittima della sua stessa natura, era a causa della sua malvagità se si trovava lì in quel momento, mezzo morto e del tutto demoralizzato, a faccia in giù sul freddo pavimento di pietra a implorare il perdono di un uomo che odiava. Gregorio acconsentì a perdonarlo come uomo, se non come sovrano. La sentenza di scomunica fu ritirata ed Enrico ottenne il permesso di ricevere la comunione nella piccola cappella che si trovava dentro la fortezza. Fu quindi accolto a Canossa, dove venne sfamato ed ebbe a sua disposizione delle belle stanze in cui rimettersi dopo quella dura prova. Enrico si trattenne per il tempo necessario a osservare la cugina nei suoi possedimenti e per vedere come si comportava. Le chiese udienza per valutare i suoi punti di forza e i suoi punti deboli, anche se Matilde non si sarebbe mai fidata di lui. Fu generosa nel dedicargli il proprio tempo, nella sincera speranza di ottenere pace e riconciliazione. Il cugino sembrava davvero interessato a diventare finalmente un grande sovrano e passava ore e ore a chiederle consigli su come comandare. La gente dell'Italia settentrionale adorava Matilde e lui voleva emulare le sue azioni in futuro per cercare di riconquistare i propri sudditi. Forse, propose, dato che erano cugini e si conoscevano sin da quando erano molto piccoli, avrebbero potuto dimenticare le loro divergenze e unirsi come grandi sovrani per collaborare in armonia. E forse lo scorpione avrebbe lasciato che il rospo nuotasse tranquillo e felice nello stagno. Il periodo trascorso a Canossa fu davvero un importante punto di svolta per l'avvelenata psiche imperiale di Enrico, ma non nel modo che aveva sperato Matilde. L'umiliazione subita per colpa di Gregorio gli bruciava dentro. Era un incendio che distruggeva qualsiasi parvenza di umanità potesse essere mai esistita nella sua mente contorta. Cosa ancora peggiore, quella sgualdrina di sua cugina era chiaramente la forza motrice di tutto ciò. Era evidente che controllava il pontefice, era ovvio che una strega del genere potesse manipolare qualsiasi uomo usando le sue demoniache astuzie femminili. Poteva essere stata solo Matilde a pretendere che Enrico rimanesse in mezzo alla neve per 3 giorni e 3 notti. Avrebbe pagato per quello che gli aveva fatto, proprio come il papa impostore, ma avrebbe fatto sì che Matilde pagasse nel modo più personale possibile. Niente avrebbe ferito la cugina più del vedere distrutta la sua preziosa Toscana. Avrebbe fatto capire agli abitanti della Toscana quanto poteva costare essere fedeli a un così mostruoso demonio. Avrebbe cominciato con Lucca, forse, o magari con Mantova. Questi erano i luoghi a lei più cari ed erano i luoghi che avrebbero pagato la sua vendetta. Quando Re Enrico IV ritornò nei suoi territori, al di là delle Alpi, valutò con attenzione le regioni che attraversò e cominciò a progettare il suo castigo, la distruzione della preziosa Toscana di Matilde. Si fermò in Lombardia per ricongiungersi ai nobili scismatici che si opponevano a Gregorio e nel giro di pochi giorni Enrico si era dichiarato ancora una volta acerrimo nemico del Papa e nemesi della contessa di Toscana. Dopotutto, era la sua natura. Ave Maria è un nome di grande santità. È presente in molte tradizioni e in tutte è santo, poiché ognuna di esse contiene il seme della conoscenza e della verità. È conosciuto in varie forme in tutto il mondo: Mary, Maria, Miriam, Maura, Miriamne. In Egitto è Meriam, e questo era il nome della sorella di Mosè e di Aronne, cui deriva dalla radice della parola mer, ossia amore, che diventa il nome Mary, vale a dire colei che è amata o prediletta. Era usato per le figlie che erano destinate a essere speciali, prescelte dagli dèi, per un destino divino in base alla loro nascita, alla loro famiglia o alle profezie che le circondavano. È stato detto che la forma Miriam combina diverse parole fino a ottenere il significato mirra del mare e alcune variazioni portano il significato di signora del mare. Ma c'è anche un altro grande segreto su questo perfetto nome femminile. Fonde la tradizione ebraica e quella egizia. L'egizio Mer, ossia amore, con l'ebraico Yam, che è un'abbreviazione sacra di Yahweh. Così, quando le tradizioni si combinano, il nome significa colei che è la prediletta di Yahweh. Durante la vita di Gesù e anche oltre, il nome spesso veniva dato dopo il raggiungimento della maggiore età come titolo conquistato da una ragazza che si era dimostrata degna di natura speciale. Diventare una Maria era una benedizione. Dalla storia del nome sacro così come è narrata nel libro rosso.